I numeri che lasciano resto se divisi per due sono quelli che non sono divisibili per due. Che nome può accomunare tutti questi numeri?